Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. E con oggi allora facciamo 200, il 200esimo collegamento in 2 anni di fruttuosa reciproca collaborazione con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, una piccola puntata celebrativa quella di oggi, ma che ci darà tanti spunti di riflessione. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, chi l'avrebbe detto 2 anni fa quando vi avevo contattato per una proposta di collaborazione che saremmo arrivati a questo punto? Sì, è stato veramente un grande risultato che anche noi come Adico siamo stati orgogliosi di aver raggiunto, perché certamente riteniamo che queste collaborazioni sono molto importanti, soprattutto perché danno un servizio di informazione al consumatore che oggi come oggi veramente si può rivelare utile, soprattutto per disbrigarsi da quelle che sono le più comuni e che, anche se possono sembrare banali, problematiche della vita, ma che in realtà poi fanno i conti con quelli che sono i districarsi di una burocrazia che non è mai a favore o di aiuto al consumatore. Diamo un numero, giusto per essere oggettivi: in 2 anni abbiamo raggiunto, tramite il nostro sito bluradioveneto.it e anche tramite il vostro, associazione difesaconsumatori.it, oltre 46.000 contatti. Noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e che hanno diciamo volentieri approfittato dei nostri e dei vostri approfondimenti. Evidentemente, Carlo, c'è bisogno che qualcuno consigli le persone, e questo lo fate voi evidentemente attraverso i nostri microfoni, noi siamo lieti di amplificarlo. Beh, certo Mirko, quando ci sono questi numeri a documentare quella che è un'attività svolta, c'è veramente da ringraziare da una parte l'utente, dall'altra essere orgogliosi un po' per il lavoro che facciamo. Noi senza voi certamente perderemo molto di efficacia e sono contento se voi, grazie a noi, riusciamo a dare anche quel grado di professionalità utile per permettere, come ha detto, al consumatore di poter trovare delle indicazioni, delle informazioni, di aiutarsi anche nel disbrigarsi quelle che normalmente sembrano delle cose semplici, che poi scopriamo che noi con il nostro lavoro alla fine ci troviamo vittime veramente di tasselli e situazioni che sono incredibili. Certamente, come ha detto, è una collaborazione che è raggiungimento di un lavoro di 2 anni che speriamo possa continuare a svilupparsi, convinti di quello che è un lavoro che stiamo facendo e di un risultato che stiamo ottenendo. Guardando anche la storia, per capire poi quali sono i temi che sono stati più gettonati e più visitati, sono quelli che riguardano la vita quotidiana. Quando si è parlato di gomme, di neve, di traffico, di autovelox, lì ci sono stati dei picchi, segno che evidentemente poi molti ci ascoltano anche dall'automobile e che questi sono problemi concreti che poi vanno risolti, e purtroppo devo dire, Carlo, sempre di attualità, no? Purtroppo sì, Mirko, quando scopriamo che diamo certi annunci, poi alla fine catalizziamo un sacco di segnalazioni e di persone che ci chiamano o ci scrivono o ci contattano anche tramite il proprio sito, e i numeri ne sono un po' la prova, perché purtroppo tante volte le cose non vengono dette in una maniera molto chiara, e certamente venendolo poi a recepire ai microfoni quando lo andiamo ad affrontare, per quanto riguarda le problematiche della vita quotidiana o le situazioni o i fatti più incredibili, certamente abbiamo notato anche noi che abbiamo dei grandissimi picchi di utenti che si rivolgono all'associazione e quindi anche alla radio tramite voi e il vostro lavoro. Certamente questo dimostra come certi argomenti sono molto stimolano molto la sensibilità dell'utente in una situazione in cui veramente c'è una grandissima profonda crisi e soprattutto disinteresse. A proposito di crisi, il secondo grande gruppo di argomenti che trattiamo spesso, ma che hanno anche un seguito, è quello delle famigerate tasse o tariffe o imposte, insomma l'IVA, che è di strettissima attualità con l'arrivo del mese di ottobre, l'IMU, l'ICI, la TARES, e anche lì noi vi ringraziamo perché cercate, non è sempre facile districarsi in mezzo alle norme, alle normative, ma di fare chiarezza su chi deve fare cosa e su quali sono appunto le informazioni giuste da dare su questo tema che purtroppo tocca a tutti. Sì, e poi amico, capita che con questi numeri anche per noi come Adico riceviamo un grandissimo stimolo per il nostro lavoro, perché poi il nostro grado di intervento lo misuriamo anche da quello che è un certo audience che riceviamo per merito anche del vostro lavoro, perché certamente questo aiuta anche a noi a dare degli indirizzi all'associazione che possono essere prioritari rispetto ad altri. Ed è vero che purtroppo quando si parla di tasse, di bollette o di nuove novità che vengono introdotte, come è capitato all'inizio della nostra esperienza quando si parlava delle gomme invernali, veramente abbiamo ricevuto, sono stati sommersi da valanghe di persone che hanno manifestato anche lo sdegno e lo sgomento, come anche altre cose che comunque hanno tutto a che fare come finalità finale quella di mettere mano in portafoglio e far tirare fuori dei soldini che in questo momento non ce li hanno. Certo, cioè, le rubriche sono tantissime e a volte ci rendiamo conto anche della difficoltà di quelle che sono da dover scegliere rispetto a tante altre che magari vorremmo affrontare, ma che, come detto, diamo una priorità su quelle che sono anche le indicazioni che riceviamo. E poi ci sono i casi concreti, e spesso sono casi clamorosi. La settimana scorsa parlavamo di questa bolletta da 20.000 euro, quindi bollette, consumi, gas, rimborsi, i viaggi, e anche queste esperienze di vita concreta, purtroppo magari dannose e anche dolorose per chi le ha vissute, ma che possono per fortuna diventare da esempio anche per altri che si dovessero trovare invischiati in certe vicende. Certo, perché poi capita che molte persone su quelle che sono un po' le disgrazie quotidiane degli altri trovano delle indicazioni su come fare per risolvere le proprie. Non che auguriamo noi di avere disgrazie, ma certamente riteniamo che l'informazione è la cosa più importante, perché alla fine per noi dell'associazione dei consumatori il vostro lavoro permette a fare un'opera di prevenzione e non di curare un male. Certamente i casi più clamorosi sono quelli che magari possono stimolare molto di più gli utenti, anche in virtù di quelle che sono delle situazioni che anche noi come Adico preferiamo segnalare rispetto ad altre, proprio perché, come ha detto, clamorose. Certamente l'ultima, come quella dei 20.000 euro, che è stata un'esperienza molto significativa, che è stata anche risolta abbastanza bene in tempi anche molto veloci, che ci fanno capire come a volte certi tipi di intervento, anche questi tramite microfoni, possono fare da megafono e ampliarli a tal punto da arrivare fino alle orecchie delle persone interessate, e questo è uno stimolo a risolvere, perché poi sotto la minaccia di comunicare agli utenti quelli che sono le disavventure di cui uno rimane vittima, c'è sempre uno stimolo da parte di chi perpetua queste azioni a volere risolvere. E allora, dopo questa puntata così riepilogativa numero 200, iniziamo ben volentieri il nostro terzo anno di collaborazione. In realtà l'abbiamo già iniziato da qualche giorno e ripartiremo tra un paio di giorni con un altro caso concreto che voi avete affrontato. Associazionedifesaconsumatori.it e poi bluradioveneto.it, lì dove c'è scritto Adico, cliccate e trovate tutti i contributi di questi primi due anni di collaborazione. Grazie al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te, amico, ringrazio anche tutti quelli della redazione e gli ascoltatori che tutti i giorni ci ascoltano. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.